America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Siamo al countdown, dibattito elettorale. I'm Judy Woodruff inviting you to join me for the PBS NewsHour's live coverage and analysis of the first presidential debate. Tune in Wednesday, October 3rd, here on your PBS station. Direi che Barack Obama resta in vantaggio nei sondaggi, resta in vantaggio sulle possibilità di poter fare molto bene a questo dibattito, resta in vantaggio nel cuore dell'opinione pubblica americana, perché in questo momento potrebbe vincere facilmente le elezioni americane. Aggiungiamo un paio di dati in più che lo aiutano, e cioè che si trova in vantaggio piuttosto importante anche negli stati chiave, in Florida per esempio col 49,3% contro il 46,1% di Romney, in Ohio col 49,5% contro il 43%, poi in Virginia, New Hampshire, Iowa, Colorado, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Missouri, Nevada, North Carolina. Direi che con l'eccezione del Missouri, dove in effetti Romney si trova in vantaggio, in tutti gli altri stati, e lo ricordo, questi erano stati incerti che in teoria Romney poteva vincere, il vantaggio di Barack Obama è invece piuttosto forte, piuttosto solido. Come andrà a finire questo dibattito? Beh, al di là degli aspetti tecnici, c'è una tematica aperta piuttosto complessa, complicata per l'amministrazione americana, e cioè il Benghazi Gate. Il Benghazi Gate, ne abbiamo parlato ieri, e la dinamica secondo la quale l'attacco contro il consolato di Benghazi, dove sono stati uccisi degli americani, incluso l'ambasciatore Stevens, è avvenuta. Una dinamica che ha sollevato polemiche, perché l'amministrazione ha avuto posizioni diverse e, quel che è peggio, sembra che abbia assunto una posizione più prudente all'inizio, proprio per non dare l'impressione di non essere in controllo dal punto di vista dell'intelligence dei movimenti dei terroristi, di poter proteggere la sicurezza nazionale. Insomma, l'intelligence americano che ha protetto l'America non è riuscito a anticipare queste dimostrazioni che sono avvenute un po' in tutti i paesi arabi, e dunque ci ha fatto brutta figura. Non c'è dubbio che su questo Romney attaccherà. Io credo che Barack Obama avrebbe fatto meglio a come out clean, come si dice, a dire subito: beh, qui è stato un attacco coordinato, Al-Qaeda è sempre in agguato e dunque in questo caso noi dobbiamo continuare a combattere il terrorismo, questo episodio ce lo conferma e io porterò i colpevoli alla giustizia. Ecco, se Obama riuscisse a catturare o a uccidere i presunti colpevoli dell'attacco all'ambasciata a Benghazi, o comunque gli esecutori materiali che poi hanno lanciato le bombe, sparato i colpi di pistola, incendiato l'ambasciata, ricordiamolo, Stevens è morto asfissiato, ecco, se Obama riuscisse a compiere questa impresa, beh, a quel punto sarebbe di nuovo a posto. Ma adesso non è così. Il dibattito, vi dicevo, è domani, e dunque questo, seguitelo, sarà un tema caldissimo. Ma oggi vorrei cambiare argomento, vorrei parlare di un paio di eventi culturali che partono a New York, e uno di questi in particolare crea un ponte tra Milano e New York in nome di Pablo Picasso, perché il 20 settembre è iniziata la grande mostra Palazzo Reale di Picasso, con oltre 200 capolavori del Museo Nazionale Picasso di Parigi. È stata curata da Anne Baldassari, che è una delle più grandi studiose di Picasso al mondo, mentre a New York sta per aprirsi, si aprirà il 5 di ottobre, una mostra di nuovo dedicata a Picasso, ma ci saranno, pensate, circa 120 opere tra dipinti, sculture, lavori su carta realizzate fra il 1904 e il 1972, e quello che accomuna queste opere è l'utilizzo cupo, austero, insomma, del nero, del bianco e delle sfumature di grigio. 32 di queste opere non sono mai state esposte negli Stati Uniti, 6 non sono mai state esposte nel mondo, quasi tutte vengono da collezioni private della famiglia Picasso. Ma non c'è solo Picasso, c'è anche un'altra mostra importante che viene inaugurata questa volta il 7 novembre allo Smithsonian Museum Sculpture Garden a Washington, ed è una mostra dedicata all'artista cinese Ai Weiwei. Il titolo è According to What, E questa mostra è sponsorizzata anche dal governo americano, poi viaggerà in altre 4 città fra Stati Uniti e Canada, ed è una mostra importante, ma come dire, caratterizzata da un po' di amarezza, perché il governo cinese non ha ancora restituito al grande artista il suo passaporto. Ecco, Wei Wei, ve lo ricordo, è un grande artista cinese, un artista che è stato anche nella contestazione, ma che ha anche partecipato a dei lavori con il governo cinese e, per esempio, ha contribuito al design, alla realizzazione dello stadio per le Olimpiadi di Pechino. Ecco, Wei Wei ha avuto poi dei problemi, perché qualcuno dice che lo ha fatto più per spirito commerciale che per idealismo, ma su questo è difficile poi pronunciarci. Ma Wei Wei ha poi cominciato a produrre delle opere che al governo cinese non piacevano, dopodiché un'inchiesta ha rivelato che lui avrebbe evaso il fisco per circa 2 milioni di dollari, un po' li ha pagati, ma poi è stato messo in prigione. Insomma, ci sono state una gran quantità di complicazioni e naturalmente Wei Wei, dal nostro punto di vista, è una vittima, perché non possiamo accettare che una persona che esprima la sua sensibilità artistica in qualunque modo lo faccia venga poi imprigionata o venga perseguitata da un governo. E dunque ci auguriamo che da Pechino finalmente giunga il permesso perché Wei Wei possa viaggiare, in attesa che poi risolvano anche le vicende che restano aperte sul fronte fiscale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Pink ha conquistato per la prima volta la vetta della classifica dei 200 dischi più venduti in America. Il suo ultimo album The Truth About Love ha infatti venduto oltre 280.000 copie. Di Pink, The Truth About Love. The truth about love comes at 3 a.m. You wake up fucked up and you grab a pen and you say to yourself, I'm gonna figure it out. I'm gonna crack that code, gonna break it down. I'm tired of all these questions and now it's just annoying, 'cause no one has the answer, so I guess it's up to me to find the truth about love as it comes and it goes. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.